me de aceite. Mas nos ojos de, mas nos ojos de, el misterio que nos hace la, fue la cosa que me fa pensar. No se ve la cuesta, mai lo so, mas pero, pero, mas pero, c'è qualcosa que me piace en te, una cosa que te avvince a me. Sarà le gambe, sarà la bocca, sarà la dote, è proprio questa qui, sì, sì, sì. C'è qualcosa che mi piace in te, oh, so, so, se, oh, so, so, se. Ho capito ciò che piace a me, e la dote solamente, l'amor non costa niente, quando so che non ce n'è. Sarà le gambe, sarà la bocca, sarà la dote. È proprio questa qui, qui, qui, qui, quella cosa che mi piace in te. Ora so cos'è, ora so cos'è, ho capito ciò che piace a me. E la dote solamente, l'amor non conta niente, quando so di non ce n'è, oh, quando so di non ce n'è.